l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. Seguiamo l'attualità economica, politica, sociale e culturale, cerchiamo altri punti di vista, cerchiamo di respirare un po' lo spirito europeo. Lo facciamo con tante voci, tante storie, tanti viaggi, anche l'interazione con voi. Potete farlo attraverso la nostra pagina in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure via Twitter, l'account è @ Federico Taddia, pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. L'altra Europa @radio24.it, invece, la nostra mail se volete contattarci direttamente, se volete mandarci idee, proposte, critiche, eventi, iniziative, siamo qua, la nostra redazione è aperta. Ogni settimana appunto un viaggio, la prima tappa di oggi è la Danimarca. Salva la terra, è un po' questo l'appello a tante voci che si sta facendo. Per fortuna dalle parole si sta passando anche ai fatti, con scelte drastiche ma che indicano un cambio di rotta, non solo formale ma sostanziale, che indicano anche un cambio di cultura, un cambio di abitudini. Ed è quello che succede in Danimarca. Da gennaio è vietato installare sistemi di riscaldamento a combustibili fossili nei nuovi edifici. Sono stati i primi danesi a mettere questa forte restrizione ed è solo una delle misure con cui si vuole arrivare entro il 2050 a soddisfare con le energie rinnovabili l'intero fabbisogno energetico. Per capire come si è arrivati a questa decisione, ma soprattutto quella che è stata anche un po' la reazione dell'opinione pubblica e quali sono i ragionamenti che si stanno facendo attorno a questa legge, abbiamo con noi Dario Sacchetti, un ingegnere informatico specializzato proprio in Danimarca sulle energie sostenibili. Ci racconterà anche quello appunto che ha fatto a Copenaghen e dintorni. Ciao Dario, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Intanto, cosa ti ha portato in Danimarca e di cosa ti occupi precisamente? Beh, in Danimarca mi ha portato il fatto di fare un master in Sustainable Energy, che era a Copenaghen presso la DTU, la Danish Technical University, a cui ho partecipato dal 2010 e l'ho concluso ad agosto 2012. Mm-hmm. Ecco, e questa decisione quindi che ha trovato spazio sulla stampa, ma neanche tanto, nel senso che credo che avrebbe potuto avere echi molto maggiori. È una decisione forte, una decisione significativa. Ma sì, cioè la Danimarca, come ben si sa, come anche tutta la Scandinavia, è abbastanza avanti sulle tematiche energetiche sostenibili e rinnovabili. Quindi diciamo che non mi sorprende una notizia come questa. Sicuramente è da inquadrare, come ben dicevi tu prima, nel lungo termine, quindi nell'obiettivo del lungo termine al 2050, di avere il 100% dell'intera catena energetica alimentata da fonti rinnovabili. Mm-hmm. Ecco, togliere le caldaie a fonti fossili di fatto vuol dire togliere gli impianti a gasolio principalmente? Ma guarda, c'è anche da dire che in Danimarca l'uso del gas e l'uso dell'olio combustibile è già diciamo minore rispetto a quello italiano, proprio perché nel caso già si alimenta con delle reti di teleriscaldamento, cioè le centrali che sono nelle zone limitrofe in cui le persone vivono hanno dei tubi che portano l'acqua calda appunto nelle case, quindi non esistono le stufe casalinghe, ma ci sono questi tubi che portano l'acqua calda, che già diciamo portano a un'efficienza più elevata. Ecco, ma è una decisione, una legge che potrebbe essere replicata anche in altre nazioni o può, in questo momento può avvenire solo lì? Ma questa è una bella domanda. Sicuramente a lungo termine credo che tutta l'Europa dovrebbe pian pianino adottare misure di questo tipo. Dopo il come sta alla legislazione di ogni paese e alle peculiarità di ogni paese. Dopo è logico che la Danimarca ha molto bisogno di caldo perché ci sono dei mesi molto freddi, noi invece potremmo adottare soluzioni diverse dato che abbiamo il solare e dato che invece cioè, i mesi freddi sono comunque minori. Mm-hmm. Tanto eolico anche in Danimarca, giusto? Sì, l'eolico ora già copre un quarto del fabbisogno di energia elettrica, circa il 25%, e proprio all'interno dell'obiettivo al 2050 di essere 100% rinnovabili, già al 2020 si vuole arrivare al 50% di produzione di energia elettrica dal vento, e già ci sono forti investimenti in questo senso. Dopo è logico che il vento è una risorsa intermittente, quindi servono sistemi di stoccaggio, servono dei veicoli elettrici che possono impiegare appunto la produzione e altre tecnologie intelligenti come le smart grid, che sono proprio quelle su cui abbiamo lavorato noi nei 2 anni e del master e del mio lavoro part time che ho svolto in Danimarca. E di cosa si tratta, hai detto? Smart grid, reti intelligenti, cioè come cercare di ottimizzare tutta la filiera elettrica e non solo, ma energetica in senso lato. Grazie davvero Dario, complimenti per il tuo lavoro, in bocca al lupo per le prossime sfide Federico, energetiche. Ciao e buon sabato. Concerning the labor market situation, the unemployment rate in the EU amounted to 10.5% and in the euro area 11.4% last year, which unfortunately masks large differences between member states. This reflects the large adjustment challenges that quello che state ascoltando è il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Proprio ieri ha lanciato un allarme disoccupazione, un allarme che riguarda l'Italia, si parla di percentuali vicino all'11% di disoccupati, ma anche l'Eurozona, pensate, nel 2013 raggiungerà il 12,2%, nel 2014 la stima è leggermente inferiore, ma sono sempre numeri altissimi, numeri che in particolare poi riguardano i giovani, quindi questa Europa dove si vedono anche spirali di ripresa economica, però poi il problema del lavoro c'è, è un problema reale. È un problema però che ha anche delle risposte, certo servono investimenti, certo servono aiuti, certo servono idee, servono anche premente nuove iniziative, ci si può inventare un lavoro, c'è spazio per la creatività, c'è spazio per buttarsi in nuove avventure. E soprattutto, quali sono le contromisure? Beh, la Commissione europea, oltre a denunciare il tasso di disoccupazione, cerca anche di offrire stimoli, di dare possibili risposte. E quindi volevamo girare un po' in positivo, partire dall'allarme, capire anche se ci sono contromisure, se queste contromisure stanno funzionando e come si può accedere a queste contromisure. Abbiamo quindi invitato Angel Berem-Liske, che è portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione europea, per farci raccontare una delle tante proposte, una delle tante iniziative, una delle tante piattaforme che la Commissione europea ha messo in atto per far circolare lavoro. Ciao Angel, ben ritrovato all'Altra Europa. Buongiorno, è sempre un piacere essere il vostro ospite. Grazie. Tante volte in queste puntate, in questi mesi dell'Altra Europa, abbiamo dato spazio a iniziative, soprattutto a piattaforme online, perché comunque anche da lì può ripartire la ripresa. Abbiamo parlato di Eures, abbiamo parlato appunto di come poter fare incrociare domande e offerte uscendo anche dai propri confini. Non stiamo parlando di cervelli in fuga, ma stiamo parlando delle andare a cercare lavoro là dove c'è. Oggi invece di cosa ci vuoi parlare? Hai detto bene, lo strumento online come risposta al problema della disoccupazione, soprattutto dei giovani, è quello più immediato, anche perché è accessibile a tutti. La seconda cosa da cui si è partiti per realizzare questo di cui sto parlando oggi è che in una situazione in cui c'è sempre più interdipendenza economica e il punto di arrivo, diciamo, nel futuro di una politica economica è quello di realizzare anche un vero e proprio mercato del lavoro europeo, in cui la domanda e l'offerta si incontra a livello europeo. Una risposta concreta è stata appena lanciata, quella del panorama dell'Unione Europea sulle competenze. Di che cosa si tratta? È un sito internet, una banca dati che mette insieme le informazioni, diciamo, quantitative e qualitative sui fabbisogni di skills, come direbbero i headhunters, no? Di competenze e di abilità. Che cosa significa questo? nel mercato moderno del lavoro, ovviamente abbiamo iniziato anche col problema della disoccupazione, quello è un dato di fatto, però sì, c'è anche una disoccupazione dovuta al fatto che c'è una mancata corrispondenza tra le esigenze di alcuni settori, soprattutto del lavoro, e la preparazione oppure le competenze di chi offre il proprio lavoro, ovvero dei disoccupati. Questo ha creato praticamente una situazione in cui in Europa tuttora ci sono 2 milioni di posti di lavoro vacanti. Ecco, che questo è il paradosso, comunque aumenta la disoccupazione, però ci sono tanti posti che non trovano l'abilità giusta, ecco. Esattamente, e questo è il grande paradosso, e per questo mettere insieme, perché fino adesso, diciamolo, l'idea di ovviare queste lacune c'è stata, però tutto è stato fatto a livello di Stati membri. Ora quello che la Commissione europea ha promosso è di mettere tutto quanto insieme a livello europeo, proprio anche sulla scia di quello che fa EURES per quanto riguarda le semplici offerte e domande di lavoro. Qui invece stiamo parlando appunto delle abilità e delle qualifiche, dove vengono ricercate di più, quali sono i settori in cui vengono richieste nuove abilità, quali sono i settori in cui c'è appunto una maggiore discrepanza e quindi dove eventualmente uno potrebbe orientarsi, oppure addirittura quali sono i consigli o le raccomandazioni da fare a decisori politici, quelli che devono poi implementare le politiche attive del lavoro oppure le politiche di formazione, perché si faccia in modo che i prossimi lavoratori siano in grado di corrispondere a queste esigenze. Certo, e ricordiamo che quando si parla di abilità non stiamo parlando solo di master o di lauree o di eccellenze, stiamo parlando proprio anche di abilità pratiche, professionalizzanti, perché appunto il lavoro è a 360 gradi, quello di cui si parla quando si pensa a queste piattaforme. Angel, grazie davvero. Ricordiamo il sito euskillspanorama.ec.europa.eu, i link già li potete trovare sia nelle nostre pagine in Facebook, sia nelle pagine in Twitter, sia le nostre personali che quelle della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Un grazie ad Angel Beremlinski, buon lavoro e alla prossima, Angel. Grazie a voi, buon sabato. Μαζική ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως, παρουσία και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τόνισε πως μια περίοδος της εικονικής εφορίας έχει παρέλθει και οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα. Κρίση, λαβόρο, disoccupazione, parole che ci portano in... Immediatamente in Grecia, la Grecia dove ancora scioperi, ancora testimonianze che raccontano, che narrano una quotidianità tragica, e proprio per parlare di questa quotidianità tragica abbiamo scelto un reportage molto bello, è stato pubblicato martedì 19 febbraio su Avvenire. Il titolo è «Lavoriamo senza paga pur di tenerci il posto», ormai si è arrivati anche a questo. Un reportage di Giorgio Ferrari, che tra le tante persone che ha incontrato ha intervistato anche Rosaria Guzzamanis. Rosaria italiana, ha sposato un medico, abita a Larissa ed è qua con noi. Ciao Rosaria, ben trovata. Grazie, buongiorno. L'ho detto bene il cognome? L'ho pronunciato corretto? Ok, perfetto. E Rosaria, tu sei una delle tante voci di questo articolo, soprattutto, se ho capito bene, tu nel lavoro che fai comunque ti occupi anche di sostegno alle persone, collabori, forse fai volontariato con un centro di assistenza? No, assolutamente. Io in qualità di cattolica e di cristiana condivido i bisogni della mia piccola comunità e delle persone che incontro, perché sono stata educata a condividere la mia vita con gli altri. Okay, quindi... faccio, io faccio cioè un è un aiuto e una condivisione in qualità proprio di cristiana, e come sono stata educata nell'ambito del movimento di Comunione e Liberazione. Ok, quindi insomma sono incontri informali quelli che tu hai con le persone, e hai portato appunto testimonianza di una quotidianità che sembra quasi peggiore di quella che viene poi raccontata, no? Perché si parla di crisi, si parla di percentuali, si parla di cifre, poi però sono le persone le vittime di tutto questo. Qual è la quotidianità che tu incontri ogni giorno? La quotidianità che io incontro ogni giorno è di una drammaticità veramente grande, perché la gente perde sempre più il lavoro, le persone, soprattutto che io conosco anche personalmente, ci sono giorni in cui veramente non hanno soldi per fare la spesa e quindi non sanno neanche cosa mettere in pentola per i propri figli. Mm-hmm. E poi la cosa più drammatica che a me almeno colpisce personalmente è l'esperienza di amici che lavorano, come raccontavo all'altro collega, si alzano alle 4 del mattino e poi non vengono pagati, non vengono retribuiti. Mm-hmm. E per cui si trovano in situazioni veramente, è veramente un dramma, perché stanno sempre lì, continuano a lavorare con la speranza che prima o poi il datore di lavoro li paghi. Quindi si rimane comunque aggrappati a quel posto nella speranza che qualcosa possa cambiare. Nel frattempo però si lavora tanto senza nessun stipendio. C'è un grande sfruttamento da questo punto di vista. Ho anche un'altra mia amica che lavora in una clinica, il cui personale è stato ridotto al massimo, su 120 deve seguire insieme ad un'altra sua collega infermiera 120 pazienti. Sì. Quindi lascio immaginare, l'80% di questi pazienti sono schizofrenici, persone con problemi, disturbi mentali, e sono solo 2 persone ogni volta. Mm-hmm. Quindi, ma c'è anche chi se ne approfitta, secondo te, di questa crisi? Sì. Sì, perché cioè, tramite esperienze, le ripeto, diretta di persone che io conosco, non parlo di luoghi comuni, ma certo, esperienze dirette. Cioè persone che, soprattutto anche privati, che poiché sanno qual è la situazione, cioè perché comunque il lavoro è difficilissimo trovare, ormai è proprio una grazia quando ti capita di trovare un lavoro, per cui loro fanno molto presa su questo, e invece di dire alle persone guarda io non ce la faccio più a pagarti, quindi ti licenzio, no? Sì. Preferiscono tenerli, sfruttandoli, perché comunque la gente, non avendo, se tu non hai un'altra possibilità di lavoro, cosa fai? Ti attacchi a quello che hai, certo, e la speranza che prima o poi l'altro riesce a ti paghi. Mm-hmm. Rosaria, un'ultima domanda. Quando si parla della Grecia, della crisi greca, si pensa, o comunque si analizza quello che succede ad Atene, difficilmente si va a scoprire quello che accade anche nelle altre città. Larissa è una cittadina borghese, 300.000 abitanti, una città universitaria, una città che come è cambiata in questi mesi, ahimè ormai in questi anni di crisi? Guarda, è cambiata nel senso che tu anche solo andando al centro, il primo impatto è proprio cioè questo, cioè tu vedi un sacco di negozi chiusi, vuoti. Ti parlo del centro, io abito a 2 passi dal centro. E poi c'è tanta cioè, gente per strada che ti chiede l'elemosina, e questo era un, come dire, almeno da quando sto qui in Grecia, non si vedevano persone che ti chiedevano l'elemosina. Mm-hmm. E vedi proprio che c'è una grande povertà. Ma a me quello che colpisce soprattutto in questo periodo, perché da 2 anni che si è passati a come dire, c'è stato un cambiamento incredibile in 2 anni. Sì. La cosa che mi colpisce è che parlando con le persone, questa crisi economica ha fatto venire fuori una crisi ancora più profonda. quella umana. Cioè, nel senso che io mi rendo conto che la disperazione viene fuori dal fatto che improvvisamente la gente si è trovata, come dire, venendo meno i beni necessari, no? E scoprendosi non attaccati a nient'altro che a questa, ai beni materiali, c'è una grande, cioè c'è questa disperazione, come chi improvvisamente ha sempre puntato cioè sulla casa, sui soldi, e improvvisamente vengono a mancare queste cose. E quindi c'è un senso di smarrimento, di vuoto generale. Ma questa è una cosa che ti ferisce tanto parlando con le persone. È una cosa proprio, è un dolore questa cosa, perché per questo dicevo è drammatico. Certo. Rosaria, grazie davvero per la tua testimonianza, davvero, davvero toccante, anche perché appunto questa è la realtà, questo è il pensiero, queste sono le storie delle persone, queste sono le storie dei cittadini europei. Grazie a voi, Rosaria, in bocca al lupo a te e a tutta la tua famiglia. Posso dire solo un'ultima cosa? Certo. Perché io penso che pochi giornalisti sottolineano questa cosa qui, che questa crisi è anche una grande possibilità per richiederci veramente dove poggia la vita. Insomma, quindi questa è una riflessione successiva, ma sicuramente importantissima. Grazie, ciao e buon sabato. Buona ciao. Giornata. L'altra Europa. Eccoci qua, ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. 2013, l'anno europeo dei cittadini, un anno importante, un anno dove l'Europa si mette in gioco, anche perché poi ci si avvicina alle elezioni europee. Insomma, è un lungo percorso di consapevolezza, di conoscenza anche di quelli che sono i propri diritti, che sono tantissimi, di quelle che sono le opportunità che arrivano dall'Europa. E qualche giorno fa a Torino c'è stata la seconda tappa di questo incontro, dialogo con i cittadini, un percorso dove i commissari europei si mettono in gioco, ci mettono la faccia, scendono a contatto con i cittadini. Ci sono state due ore molto belle di botta e risposta con il commissario, con la commissaria Malmström, e proprio in quell'occasione il vicepresidente della Commissione europea, Viviane Reding, ha lanciato un messaggio importante. Vi voglio far ascoltare le sue parole. Quando una crisi ha questa ampiezza, bisogna avere il coraggio di discutere delle questioni fondamentali. L'Europa che abbiamo costruito va bene così? Quale tipo di Europa crediamo sia necessaria per far fronte ai nostri problemi e a quelli del mondo? La mia risposta è molto chiara. È necessaria un'Europa più unita. Più unita vuol dire più integrata, e più integrazione vuol dire più democrazia. Sono finiti. Più integrazione vuol dire più democrazia. Questo è il messaggio. È il messaggio che ha voluto lanciare la Reding. Per capire come l'Europa poi scende nel territorio, le presenze capillari che ci sono anche nelle nostre città, nei nostri comuni, oggi volevo rilanciare e parlare di Europe Direct, prendendo spunto proprio da quello che è successo a Torino, dove l'ufficio di Europe Direct è diventato così il braccio operativo, l'anello di congiunzione tra i cittadini e la Commissione europea. E con noi c'è proprio Alba Garavet del centro Europe Direct di Torino. Ciao Alba, benvenuta. Ciao Federico. All'altra Ciao, Europa. Buongiorno. Tu sei una delle facce, sei uno dei volti dell'Europa alla fine, perché comunque c'è un centro, ma poi per fortuna ci sono migliaia di appendici. Ci siete voi in quegli uffici dove le persone entrano e vi chiedono cosa. E soprattutto entrano queste persone e che consapevolezza hanno di essere cittadini europei? Ma guarda, in verità quelli che arrivano alla rete Europe Direct, quindi a tutti gli sportelli, in Italia adesso sono 48, in Europa sono circa 450, hanno già individuato un riferimento dove chiedere informazioni sull'Unione Europea, e le informazioni sono le più diverse. Tu hai parlato di opportunità e diritti, questo è effettivamente un po' il condensare quelle che sono le informazioni che si possono trovare alla Europe Direct. Opportunità, si parlava prima di lavoro, molti dei nostri utenti in questo momento vengono a chiedere come possono fare a trovare lavoro in Europa. Noi possiamo guidarli, assisterli, facciamo loro conoscere quelle che sono le opportunità, ma soprattutto parlando con loro cerchiamo di capire su quale livello di opportunità possiamo orientarli. Molti sono sicuramente pronti per provare a cercare un lavoro all'estero, allora gli facciamo conoscere la rete Eures, li aiutiamo a navigare nel portale per cercare un'eventuale offerta formativa che li soddisfi, e devo dire che a volte è anche bello quando ci riusciamo in breve, e quindi diventa una soddisfazione. Di recente un educatore abbastanza sconfortato è riuscito, tramite la consulenza al nostro sportello, a rispondere a una richiesta di un educatore in Francia. Mm-hmm. O studenti che usciti dalla laurea, anche loro cercano un'opportunità in Europa. Spesso vengono orientati ancora su percorsi di studio, formazione e lavoro, con tutto quello che è ad esempio la possibilità di fare dei master finanziati dall'Unione Europea. Erasmus Mundus è un programma ancora poco conosciuto, si conosce molto l'Erasmus, ma poi altre opportunità magari hanno bisogno di essere un po' più sviscerate. Diciamo che la possibilità, è vero, tutte queste informazioni innanzitutto, lo dico, sono online, sono sulle pagine dell'Unione Europea, sono sulle pagine in italiano dei siti dedicati, ma gli sportelli Europe Direct svolgono quel compito magari di riuscire a facilitare l'accesso all'informazione. L'accesso all'informazione c'è, molte volte non è facile orientarsi. Certo, grazie davvero Alba, ricordiamo il sito ec.europa.eu, lì si possono trovare tutte le informazioni sui 48, hai detto, Europe Direct oggi attivi in Italia, giusto? Sì, i 48 Europe Direct direttamente si possono trovare, come hai detto tu, su ecieuropa.eu/Italia, si può andare sull'organigramma che la rappresentanza della Commissione Europea sta aggiornando, perché si è aggiornata la rete con l'inizio del 2013, e possono trovare i riferimenti, sono anche tutti gli Europe Direct online sul sito. Vorrei segnalare ancora un sito interessante, che è La Tua Europa, delle pagine del server Europa, che è europa.eu/youreurope. Perfetto. Lì si possono trovare tutti gli approfondimenti per i cittadini e per le imprese. Grazie davvero, ciao e buon sabato e buon lavoro. Ciao. L'altra Europa. La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto? Sì. Ma non per le foto delle ragazze fiche, puoi trovarle ovunque in rete, le foto delle ragazze fiche. Sì. Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia tutti quello che vogliono, foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare, magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. Un piccolo estratto preso dal film The Social Network per presentare un convegno che si terrà dal 28 febbraio al 2 marzo a Firenze, il convegno Il Corpo e la Rete, strumenti di apprendimento culturale, organizzato dalla Fondazione Intercultura, che dal 1955 promuove programmi di studio all'estero per gli studenti delle scuole superiori. Spesso abbiamo parlato di intercultura, spesso abbiamo dato voce a questi ragazzi che stanno facendo un'esperienza di studio in altri paesi del mondo, in particolare d'Europa, per capire come anche l'esperienza diretta sul campo possa essere utile per creare una cultura europea. Un convegno molto importante, corpoerete.org è il sito, perché si mette al centro quello che è la rete, quelli che sono i social network, per capire quanto vadano ad influire nell'apprendimento e nella costruzione anche di nuove relazioni. Con noi c'è Antonio Casilli, professore associato di Digital Humanities Telecom Paris Tech, è un sociologo e terrà appunto un workshop molto bello, molto stimolante sulle relazioni sociali e culturali digitali. Buongiorno Casilli, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico. A proposito di social network, ho riso molto nel vedere il suo tweet poco tempo fa, in cui chiedeva scusa a una radio francese per essere nostro ospite, vero? Sì, perché sono spesso ospite di questa radio francese, che è Radio France Culture, e per oggi una piccola infedeltà. Ci è piaciuta questa contaminazione, assolutamente. Antonio, di cosa parlerai? Perché ci sono tanti aspetti, ho visto, del tuo lavoro e di quello di cui andrai a parlare. C'è l'aspetto fisico della rete, che mi sembra molto interessante, e c'è anche capire cosa succede a un ragazzo che vive qualche mese, vuol dire 6 mesi, vuol dire 12 mesi, quindi un'esperienza forte all'estero. Beh, e si trova magari ad aggrapparsi anche alla rete per mantenere vive le vecchie relazioni, o forse amplificare quelle nuove? Beh, diciamo che io mi occupo di una parte della sociologia che è un po' speciale, mi occupo sia di corpo in rete, ovvero sia di quali sono le strategie che gli utenti di internet mettono in atto per presentarsi agli altri. Ci sono delle strategie che sono delle maniere di mettersi in scena su questi social media e che sono estremamente codificate e che servono da una parte a esprimere quello che noi vogliamo essere, ma dall'altro a farci riconoscere da persone che fanno parte della nostra comunità, della nostra rete personale, del nostro circolo di conoscenze online. Sì. Adesso naturalmente, se diciamo che c'è bisogno di farsi riconoscere da questo circolo di conoscenze, subito mettiamo avanti un'altra tematica, che è questa di come si struttura questo circolo di conoscenze, e questo è l'altro punto, cioè la parte rete. E la parte rete si analizza soprattutto attraverso quella che si chiama l'analisi delle reti sociali, che ci permette per esempio di vedere come persone che sono in mobilità internazionale, l'esempio degli studenti all'estero è un esempio abbastanza chiaro, ma riguarda anche persone che sono in situazioni di migrazione, o persone che sono molto semplicemente all'estero per motivi diversi e per periodi più o meno lunghi. Queste persone si servono attualmente degli strumenti che internet ci mette a disposizione per, da una parte, crearsi una rete di appoggio nel luogo di accoglienza, quindi nel paese nel quale si sono trasferiti, ma anche per mantenere una rete di sostegno nel paese di origine. Naturalmente queste due reti si strutturano a livello proprio di come noi le possiamo analizzare da un punto di vista proprio di grafico sociale in maniera diversa, e gli strumenti del social web ci permettono giustamente di tenere insieme queste due parti della nostra vita, creare dei ponti, delle passerelle, i quali ponti e passerelle poi sono utilizzati in momenti diversi per funzioni diverse, secondo naturalmente le esigenze di ciascuno. Ecco, una curiosità, ma Antonio, questo ponte ha bisogno di voce, quindi pensiamo a Skype, ha bisogno di testi, quindi pensiamo a Twitter, ha bisogno di fotografie per essere comunque immersi in ciò che si è lasciato e farsi così accogliere nel nuovo, quindi penso a Facebook, nel senso c'è un social network, c'è un canale privilegiato della rete per mantenere vive o per attivare queste relazioni sociali? Beh, ci sono, diciamo, secondo le fasce di popolazione, certi servizi sono preferiti. L'esempio che citavi di Skype è abbastanza chiaro, perché date certe caratteristiche di questo servizio è molto utilizzato per esempio da persone che sono in situazioni di migrazione internazionale, colleghi che lavorano qui in Francia per esempio sulle diaspore, cioè sarebbe dire sulle popolazioni migranti, vedono quanto è importante per queste persone di equipaggiarsi con Skype per creare una finestra verso il paese d'origine o un contatto tra i due. Altre piattaforme sono utilizzate da altre fasce di popolazione. Naturalmente adesso Facebook è un po' il medium generalista per gli studenti universitari, è diventato, questo lo dico sempre, il McDonald's dei social network, cosa che quando lo dico non fa mai piacere a quelli di Facebook, ma è vero che è veramente un po' una scelta obbligata per certi di esserci, ma questo non significa poi che non si possano anche lì articolare l'uso di Facebook con altri network che sono localizzati. Per esempio, se mi trasferisco in un paese come può essere la Cina, avrò interesse a crearmi un doppio profilo, uno su Facebook e un altro su il corrispettivo cinese di Facebook che si chiama RenRen, oppure se mi trasferisco in Russia, avere un altro profilo su VKontakte, che è appunto quello che va di moda in Russia, o certo, in Brasile su Orkut. Quindi insomma, giocare su diverse piattaforme significa anche saper giocare in maniera diversa con differenti comunità online che si creano proprio attraverso questi social. social network. Antonio, tu sei italiano ma insegni, appunto, lavori in Francia. Pensi che comunque una nuova cultura europea, soprattutto per i più giovani, possa passare anche da queste relazioni digitali? Io credo molto nell'ibridazione che queste culture digitali permettono. Per ibridazione naturalmente intendo dire che c'è un effetto di confusione, di contaminazione. Vedo in questa confusione, in questa contaminazione dei germi di qualche cosa di positivo. Non credo che i processi interculturali si facciano sempre in maniera armoniosa, al contrario, credo che ci sia una forza anche negli scontri, negli attriti che si possono creare nel confronto di diverse culture. E giustamente il fatto che si insista tanto sul fatto che questi social networks permettano di mettere insieme persone di orizzonti diversi è effettivamente la parte positiva, ma non ci dimentichiamo mai che questi incontri diversi devono sempre prendere in conto una parte di conflittualità, una parte di attrito, certo. E che noi dobbiamo abituarci a questa conflittualità e a questo attrito e vedere la ricchezza che si nasconde dietro questi momenti che possono essere veramente di confronto con qualche cosa di inaspettato, di sorprendente, a volte che disturba anche un po'. Grazie davvero Antonio Caselli, ricordiamo www.corpoerete.org, il convegno Il Corpo e la Rete dal 28 febbraio al 2 marzo. Buon lavoro Caselli, alla prossima. Grazie. Grazie, ciao. Grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina, Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca e Peter Bescapè. Un grazie a voi. Vi ricordo che ci trovate radio24.it sul sito, in Facebook o in Twitter. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao.